Allora, siamo qui con Federico Raboni per presentare Quando il fumo si dirada, libro scritto da lui appunto, che è uscito lo scorso anno, ricordami il mese se non A luglio, metà luglio, la presa luglio. della Bastiglia. Perfetto, quindi già è evocativa la data e adesso scopriremo di cosa parla chiaramente. Siamo già alla prima ristampa, quindi probabilmente l'interesse del libro va bene. E ringraziamo pure la libreria Otratek che ospita oggi qui per questa presentazione. Non è facile in questo momento dove tutto è un po' sospeso, tutto un po' fermo, ma loro hanno ancora voglia di rilanciare in avanti e appunto prima che fumo si diradi continuiamo con questo tipo di opera. Allora Federico, il libro parla schematicamente, Sì. chiaramente partendo da una prospettiva personale, quindi diciamo autobiografica, anche se usi la terza persona, poi ne parleremo, del cosiddetto movimento antagonista, come veniva chiamato all'epoca, degli anni, fine anni 80, per tutti gli anni 90, fino a fare il suo ingresso nel nuovo secolo. Appunto, cosa fu questo movimento e soprattutto perché questo libro? A me mi ha incuriosito molto il fatto che tu nelle prime pagine scrivi che una notte hai avuto come una mancanza d'aria, un malore simile a un infarto. A me sembrava un po' una metafora, no? Cioè, forse l'esigenza di scrivere questo libro prima che manchi il fiato, prima Sì. che non ci sia più la forza. Ecco, non so se ho visto bene. Sì, è stato un po' un primo campanello su quello che può essere la caducità della vita e quindi anche sulla necessità, pensandoci poi nel tempo, questo è stato frutto anche di vari input, di vari stimoli, soprattutto della mia compagna che sentendo i racconti o incontrando le tante persone che conosco dice: "Ma perché non ne scrivi della tua esperienza?" E così è stato. La funzione principale, secondo me, è una testimonianza per le nuove generazioni, anche perché questo periodo, gli 80 e 90 a seguire, non è stato tanto raccontato e affinché non lo sia da tribunali o informazione di massa, è importante il punto di vista di chi quegli anni li ha vissuti. Questo è, per me, mi farebbe molto piacere cominciare anche una serie di presentazioni appunto con i più giovani, magari nelle scuole, chissà. Sì, anche perché il periodo che tu racconti è anche il periodo in cui tu stesso, e noi tutti avevamo 20-30 anni di meno, per cui eravamo giovani a nostra volta e raccoglievamo in qualche modo, si raccoglieva un'eredità che era quella degli anni 70, in un contesto però completamente mutato. Hai messo l'accento su questa cosa, ma ero anche appunto, specificato bene le diversità, no? Sì, io come scrivo anche nel libro ero senza padri. La mia formazione è del tutto derivata da stimoli personali, da curiosità, per cui ho preso un po' qua e là di formazione libertaria, ma proprio per mia curiosità personale, per cui un grande interesse per i movimenti sociali degli anni 70 italiani, per il Black Panther Party. E poi soprattutto legata alla pratica. Quindi la miccia è stata un po' il movimento studentesco della Pantera nel 1990, da lì l'esigenza di dar vita a un centro sociale nel mio quartiere, Monteverde, che non ne aveva, non ha luoghi di socialità, ha un solo teatro, non ha neanche più un cinema. E poi da lì le occupazioni, i vari centri sociali, fino ad approdare poi a Radio Onda Rossa, ma poi anche l'occupazione del Teatro Valle. Insomma, ci sono stati molti momenti che hanno attraversato il movimento antagonista, se penso anche a quella pietra miliare che è stato il processo Frisch. Tanti momenti che per curiosità mia mi hanno visto là dentro, quindi li ho attraversati con Però migliaia di persone. naturalmente non sei un passante, non eri un passante, No. no, erano scelte chiaramente, ecco appunto, all'interno di quel contesto hai appunto scelto di abbracciare certe pratiche, certi tipi di pratiche politiche che erano proprie di quel movimento, ecco Sì. appunto su cosa si basava, e si basa naturalmente perché stiamo parlando anche di cose che esistono anche se in forma molto diversa, credo ne potremo parlare anche oggi. Sì. Tutto parte dalla voglia di autogestione, di essere responsabili e protagonisti del proprio destino, con altre persone, non il gesto individuale, ma condiviso da una comunità. Questo vale per i centri sociali, vale per Radio Onda Rossa, che fin dalla sua origine nel 1977, maggio 77, è stato questo. C'è la riunione del lunedì di redazione che decide il palinsesto di tutta la settimana. è autofinanziata, idem i centri sociali, idem occupazioni come quella del Teatro Valle di lavoratori e lavoratrici dello spettacolo. Mettersi in gioco in prima persona insieme ad altri e ad altre. E partendo appunto da questa cornice, diciamo, culturale, politica, personale, fatta di letture o da autodidatta, come dici tu, no? Non so neanche se il termine è giusto, però insomma, per spiegare, è una cosa che poi accomuna molti e molte che hanno attraversato quel movimento. Si toccano, appunto, l'hai un po' accennato già brevemente, sì, tre filoni: l'occupazione dell'università. Stiamo parlando di Roma, quindi chiaramente è un contesto locale, ma che, essendo appunto Roma, la sua funzione è nota, assume un valore un po' più nazionale, quindi le vicende personali, e questa è la cosa che mi interessa molto, si intersecano molto poi con avvenimenti più generali della storia più o meno recente del paese. Appunto, l'occupazione dell'università, l'epopea, questo termine, dei centri sociali, quello che qualcuno chiamava il centro socialismo reale, no? Sai, si scherzava su questa cosa, e appunto l'esperienza radiofonica. Sì. Cosa accomuna questa scansione temporale lunga 20 anni, diciamo? 30 anni. Tendo a dimenticare. Più di 30 anni. Consapevolmente. Appunto, cosa accomuna questi momenti e secondo te cosa rimane adesso di questa roba? Pochi mesi fa è stata realizzata un'antologia, Detonazione, che raccoglie un po' tutto quello che è stato Roma, la Roma antagonista del decennio 90, un volume corposo. Ti rendi conto che tra riviste, centri sociali, emittenti, Roma è stata, a livello direi anche europeo, un motore incredibile di proposte culturali e sociali. Ecco, è stato soprattutto questo, e in tutto questo il movimento ha segnato delle pagine, io le definirei storiche. Ci sono stati momenti molto importanti, dalla solidarietà, come poi ho sviluppato anche nella prima ristampa, al popolo curdo, quella è stata l'esperienza di Piazza Kurdistan a Piazza Celimontana, a seguito dell'arresto di Abdullah Öcalan del PKK, che era transitato anche per Roma, fino al processo Pripke, che a livello giuridico ha segnato un passo, direi, centrale, e che ha fatto giurisprudenza, dalla non prescrittibilità dei crimini di guerra alla responsabilità individuale. Il famoso armadio della vergogna, l'armadio, no? Della vergogna, di Intellisani. Esatto. E quindi è stato poi un laboratorio, soprattutto i centri sociali sono stati centrali. Roma vantava un patrimonio di centri sociali notevole, erano più di 20 le occupazioni dal centro alla periferia, soprattutto la periferia, ed è stato un laboratorio appunto di autogestione che tuttora continua con le esperienze di base, che non sono solo legate ai centri sociali, ma a tutto l'associazionismo che si muove in città nei più svariati ambiti. Però ecco, l'autogestione secondo me è stata questo resta di quell'esperienza, un laboratorio in continuo divenire, ma che dei punti fermi li ha messi, ecco, secondo me è un patrimonio notevole questo. Senti, io ti faccio l'ultimo, adesso ci abbiamo verso la fine, un'ultima domanda che forse un po' contiene altre questioni. Abbiamo parlato di Roma, che Roma era, come si viveva quella Roma lì? Certo, ogni paragone rispetto a oggi è quantomeno fuorviante, inadatto, nel senso che insomma il periodo è talmente particolare per cui, ma diciamo, in uno stato di normalità qual è la differenza? E soprattutto, secondo te, hai detto che questo periodo, appunto, quello preso in questione dal tuo libro, è poco raccontato, se ci sono altre esperienze in merito, e secondo te se c'è la possibilità o la necessità di avviare un lavoro più collettivo, più generale, proprio di raccordo fra le varie pubblicazioni che ci sono state? Per quanto riguarda la città, dei processi erano già avviati dagli anni Ottanta, parlo della gentrificazione, di quello che sono state le trasformazioni dei quartieri centrali, a partire per esempio da Trastevere, che era un po' la zona che più frequentava. Che poi ne parli, appunto. Ne parlo anche nel libro. E poi il rapporto difficile, sempre critico, con le istituzioni. Allora ci fu la questione centrale della campagna per il Campidoglio, quando si sfidarono Rutelli e Fini. Una cosa attuale, diciamo, visto che fra poco... Una campagna che vide protagonisti anche i centri sociali, a cui si rivolse Rutelli nella sua campagna elettorale e che furono poi determinanti anche per il suo insediamento. E però poi tutta quell'onda che poi portò al coordinamento dei centri sociali, alla delibera 26 del 95 per l'assegnazione degli spazi ai relativi occupanti, che poi è naufragata perché cioè, per una serie di condizioni la controparte d'altronde è rimasta ferma su alcuni principi che erano assolutamente deleteri, dal canone d'affitto alla fine delle occupazioni a venire, perché quella avrebbe messo un punto, insomma una serie di criteri che avrebbero snaturato completamente l'esperienza autogestionaria, con la non comprensione di quel tipo di pratica. Esatto, esatto. E poi invece per quanto riguarda l'altra domanda, sì, è necessario fare una sorta di rete di quello che è la letteratura legata a quel periodo. C'è l'archivio dei movimenti che è nato da poco e questo sta facendo a Roma Sud. C'è stato anche il trentennale della Pantera che ha visto il coagularsi di quelli che hanno vissuto quell'esperienza e che hanno poi dato vita a una pagina Facebook, ma anche a un dibattito che ha prodotto anche un momento pubblico per il trentennale, appunto. E poi, appunto, come ti dicevo, c'è questa antologia molto interessante che raccoglie contributi vari, materiali vari sul decennio, per esempio, dei 90 a Roma, che è Detonazione. E in questo senso mi sembra che sia sempre più necessario, ecco, creare una biblioteca fruibile multimediale rispetto a quello che è avvenuto, anche per dare, ecco, un'idea e una prospettiva a chi è più giovane e a partire da quelle esperienze magari vorrebbe intraprendere un suo percorso. Salutiamo chiaramente chi avrà la pazienza di ascoltare, questo è il libro, doppia copia, quindi non vi potete sbagliare. Il ringraziamento appunto va sempre alla libreria Odradek. Se volete ricordare poi dove sarà fruibile appunto la visione dell'intervista per chi vorrà ascoltarla. Credo Instagram e Facebook della libreria Odradek, perfetto.